Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. Provenzano è molto malato, basta col 41 bis, rischia la morte. Giuseppe Nirta non può sostenere il carcere duro. Quelli che vi ho letto sono due titoli di giornali, l'uno della Sicilia di Catania e l'altro della Gazzetta del Sud. Fanno riferimento, tanto l'uno quanto l'altro, agli appelli lanciati dai rispettivi avvocati sulle insostenibili condizioni di carcere duro per il boss corleonese e per uno dei componenti del gruppo di fuoco, secondo l'accusa dei PM, che a Ferragosto 2007 si macchiò in Germania della strage di Duisburg. Lungi da noi l'idea di fare della facile ironia sulle loro condizioni di salute. Provenzano sarebbe ammalato di cancro, mentre Nirta avrebbe disturbi alimentari. Quel che colpisce è la costante e metodica riproposizione di critiche al carcere duro, che, non dimentichiamolo mai, al di là delle coscrizioni fisiche, è un vero e proprio colabrodo. Anche dietro le sbarre, i boss di mafia continuano a impartire ordini senza problemi. Chiariamo ancora che il diritto alla salute e alle cure sanitarie è e deve essere garantito ad ogni detenuto. A maggior ragione a chi si è macchiato di fatti di mafia o è accusato di essere un mafioso. Non fosse altro per il fatto che la giustizia deve essere in grado di fare fino in fondo il suo corso proprio con queste figure. Solo che il sistema penitenziario è perfettamente in grado di garantire ogni forma di tutela e garanzia dei diritti, a partire da quello alla salute. Non esiste carcere che non abbia al proprio interno un monitoraggio sanitario 24 ore su 24 ai detenuti. E allora viene un sospetto che ancora una volta sia proprio l'isolamento dal resto del mondo, seppur spesso virtuale, che i boss di mafia, veri o presunti, intendono abbattere. Come dire, nessuno può permettersi di recluderci come bestie in gabbia. Buona giornata e a domani.